Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Europa pensa ad un intervento militare umanitario in Libia. Parigi evoca crimini contro l'umanità. A Tripoli bombardata ancora la folla e così in altre città libiche centinaia di morti. Gheddafi asserragliato nel palazzo bunker ha annunciato che tra poco parlerà in TV. Julian Assange sarà estradato, il Tribunale di Londra ha deciso di mandarlo in Svezia per il processo per abusi sessuali. Cassina lascia la ginnastica, basta così, dice, mi sento appagato. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Mentre arrivano racconti drammatici di nuovi bombardamenti sulla folla a Tripoli e in altre città libiche, come sentivate dai nostri titoli, il colonnello Gheddafi dovrebbe parlare tra poco, così almeno è stato annunciato. Intanto però a Bruxelles, come vi abbiamo anticipato nel giornale Radio delle 12, si sta valutando un intervento immediato, anche militare, per fermare il massacro e per aiutare i profughi e gli stranieri in fuga dal paese. Allora sentiamo subito che succede su questo fronte, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Bruxelles accelera dunque sull'emergenza libica. Stiamo cercando un appoggio navale militare per far rientrare a casa le migliaia di cittadini europei che ancora sono nel paese nordafricano, dice un portavoce della Commissione. L'opzione militare a scopo umanitario entra dunque nell'agenda dell'Unione, Unione che frena invece sul tema immigrazione. Per il momento viene spiegato, non si registrano movimenti di immigrati dalla Libia verso il continente. Secondo fonti europee, la strategia dell'Unione punterebbe a dare sostegno ad eventuali profughi organizzando dei centri di accoglienza direttamente in Tunisia ed Egitto. Il ministro dell'interno Maroni tuttavia invita a fare presto. L'Italia, spiega il ministro, può fronteggiare l'emergenza ma non per tanto tempo. Sentiamo Maroni. Bisogna passare dalle dichiarazioni siamo pronti alle azioni. Allora il fondo si costituisce, le iniziative che abbiamo proposto sono attuate, bene, se no di fatto noi oggi l'Italia sta gestendo questa emergenza con gli strumenti messi in campo dalla Protezione Civile italiana e dal governo italiano. Siamo in grado di fronteggiare l'emergenza, sì, però non per tanto tempo e soprattutto in dipendenza di quello che succederà nei prossimi giorni in Libia, punto di domanda, cosa succederà? Infine, una notizia che arriva da Parigi, la Francia ritiene che le violenze avvenute in Libia potrebbero costituire dei crimini contro l'umanità e che bisogna pensare ad un ricorso alla giustizia internazionale, questo secondo il ministro degli esteri transalpino. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto, che succede in Libia? Secondo una notizia di questi istanti, i manifestanti sarebbero pronti all'assalto del palazzo bunker dove si trova Gheddafi, ma intanto sono anche in corso nuovi bombardamenti. Allora, sentiamo le novità da Roberta Pellegatta. Buongiorno dalla Libia. Come abbiamo raccontato nel corso della mattinata, le notizie sono drammatiche. Una repressione violenta, come dicevi, da parte delle forze di Gheddafi è in atto a Tripoli, nei sobborghi come Tajura e nelle città vicine come Al-Zawiya. Asserragliato nella sua residenza bunker a sud di Tripoli, il colonnello sta tentando senza pietà il tutto per conservare gli ultimi capisaldi ancora non in mano agli insorti. I suoi oppositori, appunto, starebbero intanto avanzando dalle regioni della Libia che già sono sotto il loro controllo per prendersi anche la capitale e la Tripolitania. L'atmosfera è quella di una resa dei conti furiosa in cui i morti si contano a centinaia, tantissimi secondo El Arabiya, già ad Al-Zawiya dove vengono usate bombe e missili, ma anche a Tripoli, a dove arrivano notizie di una repressione senza precedenti praticata addirittura casa per casa, come Gheddafi aveva annunciato nel suo discorso che sembrava delirante ma che si sta traducendo in realtà, purtroppo. Dicevo di un Gheddafi richiuso con pochi fedeli in un bunker, esattamente come il Führer nelle sue ultime ore, un paragone che torna anche nelle parole del ministro della giustizia libico dimessosi nei giorni scorsi e che in un'intervista ha dichiarato Gheddafi morirà suicida come Hitler. E mentre uno dei figli del colonnello si ostina a dire che non è nato nessun attacco e che nelle città libiche l'atmosfera è normale, su internet arrivano filmati che riprendono decine di corpi senza vita a terra con le mani legate. Sono i soldati dell'esercito che si sono rifiutati di sparare sulla folla e che sono stati giustiziati in quanto traditori del regime. Il filmato sul Corriere.it si riferisce alla città di Bengasi, ormai sotto il controllo dei ribelli, ma la stessa cosa sta capitando ad Al-Zawiya. e come dicevi stiamo attendendo il terzo discorso TV da quando è iniziata la rivolta di Gheddafi, è stato annunciato dalla TV di Stato libica. Per ora è tutto. Grazie Roberta Pellegatta. Naturalmente se Gheddafi comincerà a parlare ve lo faremo sentire in diretta. Nel frattempo da aggiungere che Alitalia ha annullato per questa mattina i voli previsti per il rientro dei nostri connazionali, data la situazione in corso in queste ore a Tripoli. A raccontarci la situazione in Libia sono in queste ore proprio anche gli italiani che sono riusciti a tornare. Uno di loro, Paolo Della Morte, un quadro dell'Enrico Ravanelli, azienda di Venzone in provincia di Udine. Lo ha intervistato Alessandra Schepisi, ecco il suo racconto. Lei è rientrato quando? Siamo rientrati ieri sera dal Cairo, partiti con l'aereo delle 4, siamo arrivati a Roma alle 17.40 e poi siamo rientrati su Trieste in serata. Per arrivare al Cairo è stato... Diciamo che è stata, allora, la situazione è stata estremamente un'avventura, in quanto 21 sera in buona sostanza noi abbiamo subito un attacco presso il nostro campo base a Tobruk, probabilmente da parte di sciacalli, incuranti del fatto che noi potessimo avere una guardia armata all'interno dello stesso campo base, cosa che avevamo, e sono partiti una serie di colpi di arma da fuoco. Sono intervenuti altri della nostra sicurezza e li hanno allontanati. Quindi nessun ferito? Da quello che sappiamo noi nessun ferito. Il discorso è che sono entrati, mentre stavo parlando via Skype, i nostri titolari che erano giustamente costantemente in contatto, erano la nostra Farnesina della situazione, perché la Farnesina è stato un atteggiamento assolutamente di disinteresse totale. Cioè vi siete sentiti abbandonati, lasciati soli al vostro destino, e quindi che cosa avete cercato di fare? Quando ci hanno detto di abbandonare il campo base, il mattino seguente siamo partiti alla volta dell'Egitto, portati dai nostri dipendenti libici che hanno sempre curato alla nostra sicurezza in maniera totale. Momento di commozione veramente forte, perché i ragazzi si sono messi a piangere, cioè perché ce ne andavamo, si sono scusati di questo tipo di situazioni, perché naturalmente non volevano vederci partecipi. L'azienda ovviamente cesserà la propria attività lì in Libia. Per noi da escludere, perché la nostra azienda ha preso una commessa da 100 milioni di euro e noi speriamo di ritornare giù al più presto a poter continuare l'attività. Così dunque il racconto degli italiani. Dicevamo anche però già in apertura del notiziario dell'emergenza profughi in arrivo. Questa mattina è stata ospite ai nostri microfoni Laura Boldrini dell'Agenzia ONU per i rifugiati, e allora sentiamola al microfono di Alessandro Mila. Queste cifre, come altre che si sono sentite questi giorni, sono cifre assolutamente preoccupanti, ma io mi chiedo quali siano le fonti di queste cifre. Normalmente quando si fanno delle stime in casi simili si fa riferimento a fonti che sono di intelligence, di ambasciata, di osservatori che sono nel paese, dunque sono cifre che devono avere un riscontro nella realtà da chi questa realtà studia. So però che in circostanze analoghe è importante essere pronti a tutti gli scenari, dunque è giusto predisporre piani di intervento, capire appunto le disponibilità che ci sono in termini di accoglienza, ma è anche vero che non bisogna alzare troppo i toni, perché nel fare questo si rischia di creare un'ansia da invasione. Questo andrebbe a complicare la gestione di questo fenomeno, perché se si crea ansia, giustamente la popolazione non avrà poi un atteggiamento di apertura e di anche solidarietà verso che queste persone. Dunque noi ci troveremo poi a gestire la crisi degli arrivi e quella poi delle comunità locali che rispetto a queste persone si metterebbe in un atteggiamento completamente negativo. Dunque un richiamo ad abbassare i toni, perché altrimenti questo andrà a costituire il problema nel problema. E così dunque dice Laura Boldrini. Chiudiamo per il momento la pagina sull'emergenza in Libia, naturalmente pronti a darvi ogni aggiornamento appena ci sarà. Da aggiungere che a temere il contagio della rivolta ora è anche l'Algeria. Il governo algerino ha approvato ieri sera un decreto che apre la strada alla revoca dopo 19 anni dello stato di emergenza nel paese. La mossa è interpretata appunto come un tentativo di venire incontro alle richieste dell'opposizione e arginare anche qui un possibile effetto contagio dopo le rivolte anche in Tunisia ed Egitto. Altra questione, il prezzo del petrolio sempre in aumento, le forniture di gas dalla Libia, non c'è nessun problema per l'Italia, ha assicurato l'amministratore delegato dell'Eni Paolo Scaroni questa mattina. Naturalmente notte, come dicevamo, tutti gli aggiornamenti, poi ancora se ci saranno. Intanto l'altra notizia che vi abbiamo dato con la nostra breaking news, voltiamo pagina e andiamo a Londra, da dove sarà estradato Julian Assange, ma ci racconta tutto Maria Piera Ceci. Sì, Anna, un tribunale britannico ha accolto poco fa, l'abbiamo detto appunto anche nella breaking news, la richiesta della magistratura svedese che vuole sentire ed eventualmente processare il capo di Wikileaks per accuse di stupro. Due donne infatti lo accusano in tal senso. Gli abusi sarebbero avvenuti durante una breve visita nel paese scandinavo la scorsa estate. Assange ha ora 7 giorni per fare appello e i legali hanno già fatto sapere che lo farà quanto prima. Lui, Julian Assange, 39 anni, australiano, era in aula al momento del pronunciamento della Corte e ha accolto impassibile il verdetto a braccia conserte. Nel corso dell'udienza il giudice Howard Riddle ha smontato punto per punto i capisaldi della difesa di Assange e a proposito dell'eventualità sollevata dai suoi avvocati che si è trasferito in Svezia, il capo di Wikileaks potrebbe essere estradato negli USA, il giudice ha detto che questa decisione dovrebbe comunque essere convalidata dal governo britannico. Assange, come ricorderete, ha messo in subbuglio e in imbarazzo le diplomazie di tutto il mondo, rivelando migliaia di documenti riservati, gli ormai famosi cable, i cablogrammi sulle attività militari di molti paesi, e anche diffuso non lusinghiere considerazioni di personale diplomatico su capi di Stato e di governo. E grazie a Maria Piera Ceci. Altra notizia degli ultimi minuti in questo giornale radio: Igor Cassina, 33 anni, oro olimpico alla sbarra di Atene 2004, ha annunciato lascio la ginnastica. L'annuncio anche in questo caso pochi istanti fa l'ha sentito Vanessa Quinto. Ma è vero, lasci? Sì, sì, lascio, perché umilmente parlando diciamo che sono contento di quello che ho avuto. Ma sei ancora giovane, Londra è così vicina. Quello sì, è vero, perché comunque Londra ormai è un anno e mezzo, però famosa grinta che serve per fare la differenza. Ce l'ho, ma forse non più per confrontarmi a livello internazionale. Termino col campionato italiano giusto per il club, per cercare di vincere il 10° scudetto e poi basta. Qual è il più bel ricordo della tua carriera, Atene? Sai, è la realizzazione di un sogno, perché per qualsiasi atleta partecipare a un'Olimpiade comunque è un sogno che si realizza. Salire sul podio, su quello più alto, sentire l'inno della tua patria, della tua nazione, credo che sia un'emozione forse difficile anche da descrivere a parole, che però ti rimarrà per sempre. Progetti per il futuro? Si intravede la possibilità di fare testimonial, diciamo, della federazione, quindi promuovere tutto quello che è lo sport e la ginnastica artistica. Le 13 e 16 minuti, le notizie di oggi di GR24. L'Europa pensa ad un intervento militare umanitario in Libia. Parigi evoca crimini contro l'umanità. A Tripoli bombardata ancora la folla, così in altre città della Libia uccisi militari che si rifiutano di sparare, centinaia morti. Gheddafi asserragliato nel palazzo bunker, ha annunciato a breve un discorso in TV. Julian Assange sarà estradato, il Tribunale di Londra ha deciso, andrà in Svezia per il processo per abusi sessuali. Arresti per la sanità in Puglia, in manette anche il caposcorta di Vendola. E riprendiamo dalla pagina politica. Al voto alla Camera c'è la fiducia sul mille proroghe dopo le modifiche imposte dal Quirinale. Intanto parla il premier Berlusconi. Facciamo allora il punto con Elisabetta Fiorito. Se il milleproroghe otterrà la fiducia della Camera domani mattina, il Governo l'ha chiesta sul maxi emendamento interamente sostitutivo del decreto che deve essere approvato entro domenica, ma il Senato conta già di approvarlo da sabato. Il provvedimento comprende il testo licenziato dal Senato al netto delle modifiche criticate dal Quirinale. E questa mattina il Presidente del Consiglio interviene sulla crisi economica, scontiamo il debito del passato, spiega il Premier, cioè l'esigenza assoluta di tenere i conti in ordine. Ma sentiamo Berlusconi. Ogni governo, oltre al nostro, si troverebbe ad affrontare quello che noi cerchiamo quotidianamente di affrontare, facendo i conti con quelle che sono le finanze dello Stato e con l'esigenza assoluta di tenere rigorosamente i conti pubblici dentro gli ambiti che ci sono imposti dall'Unione Europea e direi ancor di più imposti dai mercati. Intanto la richiesta di fiducia sul mille proroghe viene contestata dall'opposizione, il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Il ricorso alla fiducia sul mille proroghe è un atto in odio al Presidente della Repubblica e al Parlamento. In odio perché lo strumento è ingiustificato e soprattutto perché attraverso questo decreto, si è tentato e si tenta ancora di far entrare provvedimenti che aiutano semplicemente alcuni cittadini ai danni degli altri e sempre quelli della cricca e della casta. Sul fronte politico invece è da segnalare l'intervista del Presidente della Camera Gianfranco Fini all'Espresso sulle definizioni di Futuro e Libertà. Fini attacca: o è frutto di un'allucinazione collettiva o di malafede. Il progetto politico è l'inizio di un lungo cammino, di una traversata nel deserto a piedi, di cui l'esito è tutt'altro che scontato. Berlusconi interessa scatenare un conflitto permanente, dice Fini, per creare uno stato di tensione, alza i muri per far dimenticare i suoi fallimenti, scava fossati contro i nemici. Molto duro Fini, avete sentito su Berlusconi. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. L'inchiesta sulla sanità pugliese ora, come sentivate, sono scattati arresti importanti. La procura di Bari ha chiesto l'arresto per il senatore del PD Alberto Tedesco, ex assessore alla sanità nella giunta di Nichi Vendola in Puglia. Nell'ambito della stessa indagine, che riguarderebbe l'assegnazione di appalti e la nomina di medici all'interno dell'ASL pugliese tra il 2008 e il 2009, sono scattati stamani altri arresti tra Bari, Lecce e Taranto. Concussione, corruzione e frode in pubbliche forniture, i reati ipotizzati a vario titolo. In manette anche l'ex capo della segreteria politica di Tedesco, Mario Malcagni, e Paolo Albanese, uno degli uomini di scorta di Vendola. Arresti domiciliari inoltre per il direttore generale dell'ASL Salentina, per il direttore sanitario dell'ASL di Bari e per due imprenditori, Digo Rana e Giovanni Carofoli. Coinvolto pure un medico oculista dell'ospedale di Terlizzi, Antonio Acquaviva, che secondo l'accusa sarebbe stato nominato su pressione dell'allora assessore alla sanità Tedesco, che, lo ricordiamo, si era dimesso dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nel 2009, ma si trattò soltanto di un trasferimento dalla Puglia a Roma. Poco dopo infatti divenne senatore al posto di un compagno di partito, nel frattempo eletto al Parlamento europeo, circostanza questa che oggi gli ha evitato l'arresto, rimandando la decisione alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torna in libertà Silvio Scaglia. Il Tribunale di Roma, su istanza dei difensori e con parere favorevole della Procura, ha disposto la revoca dei domiciliari per l'ex amministratore delegato di Fastweb. Scaglia è coinvolto, ricordiamo, con altre 25 persone nel procedimento sulle cosiddette truffe carosello ed è accusato di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Tornato in Italia, è rimasto agli arresti tra carcere e domiciliari per oltre un anno. Non mi sarei mai aspettato un percorso così travagliato e lungo, ha detto, ma rispetto alla giustizia e conto sul processo in corso per rendere evidente la mia innocenza. E ora altre vicende giudiziarie, quelle che riguardano Vittorio Emanuele II, ora spunta anche un video. Io avevo una batteria di avvocati. Devo dire che li ho fregati. Chi parla, intercettato senza saperlo, è Vittorio Emanuele di Savoia e nel carcere di Potenza durante la detenzione per Vallettopoli il 21 giugno 2006. Quella intercettazione, corredata da un video, è apparsa oggi sul sito del Fatto Quotidiano. I contenuti erano noti dal 2006. Si sapeva che Vittorio Emanuele spiegò ai compagni di cella come riuscì a salvarsi dal processo che lo aveva visto imputato in Francia per la morte del giovane Dirk Hammer. Il 19enne tedesco morì in seguito alle ferite riportate la notte tra il 17 e il 18 agosto 1978, mentre dormiva nella cuccetta della barca ancorata nel porto di Cavallo a fianco di quella del Savoia. Un diverbio tra Vittorio Emanuele e l'italiano Nicky Pende finì con il principe che imbracciava un fucile e sparava nel buio. Anche se io avevo... Nell'intercettazione Vittorio Emanuele ammette che aveva torto, spiegando che il fucile sparò verso il basso, colpendo Hammer, che dormiva sotto coperta. L'intercettazione ora si può ascoltare, non è chiarissima, ma abbastanza da confermare quanto si scrisse nel 2006. La sorella di Hammer, Birgit, si dice sollevata nel dolore. Quel signore non potrà più dire di non aver sparato a mio fratello. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio, con la serata amara per l'Inter, il Bayern Monaco ieri sera si è preso la rivincita a confermare le nostre difficoltà in Europa. Molto sfortunate, bella partita, mi sembra che è difficile giocare senza un centravanti, ma comunque è stato molto bravo Leonardo, perché in fin dei conti il gioco c'è stato, la squadra si è mossa molto bene, abbiamo avuto molte occasioni, è andata così. Giocando già come stasera creeremo tante occasioni simili, quindi io credo che se andiamo là con un po' di fiducia non è detto che il risultato non sia positivo. mai dire mai. Moratti è ottimista, ma bisogna guardare in faccia la realtà. Rovesciare a Monaco l'1-0 di San Siro, deciso al 90° da una quasi papera del portiere Julio César, non sarà facile. Bisognerebbe andare indietro nel tempo, a un'impresa tipo quella di Serena e Berti nel 1988. Ma con la storia non si fanno i gol e non si va avanti in Champions League. L'altro aspetto, pure inquietante, è che dopo Milan e Roma anche l'Inter si fa battere in casa. In modo diverso, certo, perché la sfida è stata all'ultimo respiro, però 3 bocciature su 3, anche se rimediabili, fanno male e ricordano che in Europa, in fatturati, diritti televisivi e merchandising, siamo quarti in tutto. La caduta dell'Inter fa ancora più rumore perché è campione in carica. Il Bayern, più squadra, per il momento ha vendicato la sconfitta del 22 maggio, ma queste sfide, si sa, non finiscono mai. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Troppi cani in città. Andiamo in Cina. Shanghai ha vietato ai cittadini, sentite un po', di tenerne più di uno. Ancora resiste l'arcinota politica del figlio unico per contrastare il fortissimo incremento demografico del paese, ma ora in Cina arriva anche la legge del cane unico. L'amministrazione municipale di Shanghai ha infatti deciso che dal 15 maggio sarà proibito avere più di un cane e sarà del tutto proibito possedere cani da attacco come mastini tibetani, cani lupo e bulldog. Chi già li ha potrà continuare a tenerli, ma se dovessero figliare, i cuccioli dovranno essere ceduti a un'agenzia del governo o, nel caso di animali non ritenuti pericolosi, a una famiglia che non possiede cani, e questo prima che abbiano compiuto i 3 mesi. Nella megalopoli cinese, 20 milioni di abitanti, secondo cifre ufficiali sono già presenti 800.000 cani, di cui solo il 25% è registrato. L'anno scorso sono state 140.000 le denunce di persone attaccate dai cani, il 40% in più rispetto al 2006. Ed anche per questo, spiegano le autorità, era necessario porre dei limiti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di arte. Fino al 5 giugno l'Arca di Vercelli ospita la mostra intitolata 1900-1961 Arte Italiana nelle collezioni Guggenheim. Dopo la trilogia dedicata proprio alla figura di Peggy Guggenheim, questa esposizione è un omaggio all'arte italiana del XX secolo e permette di vedere oltre 40 opere di artisti italiani provenienti dalle collezioni di Venezia e New York. Il curatore della mostra, Luca Massimo Barbero, al microfono di Adriana Fracchia. L'idea è proprio quella di celebrare un'unità d'Italia in secolo, in questo caso i 150 anni sono, come dire, un'occasione straordinaria di arte italiana, però vista dagli occhi e dalla fortuna del collezionismo americano, e quindi emerge un mondo di arte italiana molto amata, devo dire, dalle grandi collezioni Guggenheim, che per la prima volta vengono riunite proprio qui a Vercelli. Un percorso a ritroso, quindi la mostra inizia proprio con gli anni 60, con i grandi protagonisti, Burri con delle opere straordinarie, un gigantesco Capograssi, Fontana, anche una donna, forse meno nota al grande pubblico italiano, paradossalmente si chiama Bice Lazzari, e poi Emilio Vedova, molto amato da Peggy. Il periodo è dal 1900 al 1961, ma ripeto, la mostra è costruita al contrario, è un compendio, un percorso e devo dire anche una festa per gli occhi, capire e vedere come le collezioni Guggenheim abbiano e ancora oggi amino l'arte italiana. E amino Vercelli ovviamente perché nell'Arca, che devo dire un contenitore sempre più straordinario, quest'anno è il quarto anno dove appunto approdano, ma devo dire felicemente, i capolavori del museo che arrivano da New York e da Venezia. E con questo ci fermiamo per questa edizione di GR24. In regia c'è Filippo Reggi, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24 come sempre torna con gli aggiornamenti alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.